Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Bene, oggi parleremo di un argomento molto particolare, direi abbastanza sofisticato, ma che ha sempre appassionato il mondo del vino. Parleremo di imperfezione. Si può fare un elogio all'imperfezione di un vino? Questo è il punto. E qual è il limite tra l'imperfezione e il difetto per cui un vino diventa, non dico imbevibile, ma così da eliminare, da non bere? Quindi un limite che sicuramente per molti, diciamo, il leg è molto molto molto stretto. E allora parleremo proprio di questo argomento. Vorrei anche sottolineare che, parlando di imperfezione del vino, potremmo paragonarlo anche alla bellezza, cioè ci sono delle bellezze che sono imperfette, però sono straordinarie. Allora anch'io ritengo che ci sono dei vini che sono imperfetti, però sono davvero eccezionali. Io molti vini li definisco bastardi, li definisco ignoranti. Ebbene, sono vini che mi piacciono tanto, però non sono mai riuscito a dare questa definizione. Se uno mi chiede: ma cosa intendi per vino bastardo o per vino ignorante? Non lo so, è un fatto istintivo, ma sentiamo se i nostri ospiti, che sono tutti, diciamo, ben dentro il mondo del vino, riusciranno così a darci questa risposta. Se si può fare un elogio all'imperfezione del vino, sono sicuro che il primo nostro ospite è un po', come posso dire, il teorico, è stato un po' il teorico di questo elogio dell'imperfezione. Buongiorno Giacomo Moioli. Buongiorno a te Davide. Giacomo Moioli è un giornalista, è un docente che insegna al Politecnico di Milano e tantissime altre cose, è stato fondatore di Slow Food. Ma ora ti faccio subito questa domanda, avrei già capito Giacomo, ma si può fare un elogio dell'imperfezione di un vino? Ma le cose vanno sempre messe nel tempo giusto. Io scrissi un editoriale circa 5-6 anni fa perché il problema che vedevo era che stavamo andando incontro a dei vini troppo omologati, addirittura tecnicamente troppo perfetti, uguali tra loro, e allora bisognava trovare la formula per accentuare questo tipo di difficoltà o di pericolo. E allora scrissi questo articolo dove dicevo: forse dobbiamo ritornare a trovare dentro il vino qualcosa che soprattutto sta fuori dal bicchiere, e tutte queste cose che stanno fuori dal bicchiere cambiano nel tempo e alcune volte non corrispondono ai canoni della sensorialità nei confronti del vino che per troppi anni avevamo avuto. Ecco Giacomo, oggi, come tu sai quanto me, i vini cosiddetti naturali, ma non stiamo ora a definirli come sono e quali sono, chiamiamoli così per intenderci, i vini naturali per molti sono imperfetti. Ecco, tu ne pensi, questa può essere una forma di imperfezione che può piacere? Ma io parto da un presupposto, che prima di tutto il vino deve essere buono da bere. Dopodiché mi pongo la domanda: è sufficiente? No, il vino deve essere anche buono da pensare. Allora l'imperfezione è un valore aggiunto se non è un difetto. E allora i vini naturali, come tutti sanno, hanno una loro caratteristica, hanno una loro forte identità, hanno una loro storia, ma comunque nella loro diversità e singolarità devono avere certe caratteristiche e corrispondere a un equilibrio pur nella loro spinta originalità. Ecco, abbiamo con noi, e Giacomo rimani con noi perché poi ti faccio intervenire ovviamente, Federico Graziani, che è un bravissimo sommelier, anche piccolo produttore di vino sull'Etna e nonché ora ambasciatore di un'azienda di Feudo di San Gregorio. Buongiorno Federico. Buongiorno Davide. Ecco, secondo te quando è che l'imperfezione sfocia nel difetto? Quali possono essere i difetti così grossolani che un vino non si può considerare imperfetto? Ecco, sicuramente ci sono delle note ossidative, ci sono delle note di acidità volatile molto elevate, queste note che ricordano l'aceto, che possono dare un valore aggiunto se sono entro determinati limiti e soprattutto integrati in un vino, ma spesso purtroppo oggi si trovano alcuni vini che grazie a queste caratteristiche spacciano i loro vini per vini naturali, e questo è un po' un peccato, perché ci sono veramente dei produttori naturali che fanno dei vini straordinari, di grandissima personalità. Come dicevi tu, la bellezza, il neo sul viso di una donna è un carattere di unicità che dona un carattere unico, no? Certo, anche nei vini apprezzabile. Anche un naso, molto particolare. Io esatto, devo dire che di personalità, sono molto d'accordo con l'ospite, con Giacomo che ha parlato poc'anzi, nel dire che i vini tendevano ad essere troppo perfetti e troppo omologati. Noi vogliamo dei vini che parlino di un territorio, che raccontino una storia, insomma. Giacomo, dimmi, hai bevuto ultimamente un vino che era imperfetto e ti è piaciuto tanto? Io ne ho uno che per me è stato, come dire, il prototipo che mi ha aperto gli occhi su questa idea. Mi riferisco a un vino che viene prodotto dal Vitigno Ansonaco all'Isola del Giglio. Capito. È un piccolo produttore che tu conosci sì. molto bene e che fa un vino dentro il quale c'è davvero tutto l'insieme di questo ragionamento, che peraltro oggi io do per scontato. La grande sfida futura è di fare vini imperfetti ma che sappiano competere in termini reali sul mercato. Io non vorrei che questo tema dell'imperfezione diventasse un po' una moda o addirittura una romanticheria. L'imperfezione è un progetto e come tutti i progetti deve avere le gambe su cui camminare. Quel vino all'Isola del Giglio è un prototipo di questa idea. Fai nome e cognome, molto bene. Il Francesco Carfagna e il vino viene prodotto all'altura, se ne producono in piccole quantità. Io non sono un mitizzatore del piccolo e bello, ma in questo caso il piccolo può servire ai grandi per capire tante cose. Grazie Giacomo. E buon lavoro a te, Davide. Grazie. Federico, anche tu, dammi un nome di un vino imperfetto che invece hai apprezzato molto. Ma devo dire, c'è un Cannonau nella zona di Santa Maria Navarrese, un pochino più all'interno, si chiama Perdarubia, appunto della famiglia Mereo. Credo che sia una delle espressioni più pure di Vitigno Franco, che mantiene un'integrità straordinaria senza avere quei canoni di bellezza facile, diciamo. Quindi è un Cannonau, nell'altro caso abbiamo un Ansonica, abbiamo dei vitigni molto particolari, quindi sicuramente andiamo a vedere che l'imperfezione la troviamo non nei vitigni internazionali, ma soprattutto nei vitigni, diciamo, nazionali, quelli locali, quelli territoriali. Sì, questo è sicuramente vero. Ci sono alcuni casi anche di vitigni internazionali, soprattutto sul confine sloveno, dove vini anche a uve Chardonnay possono dare un carattere abbastanza unico, diciamo, ai loro vini. Quindi anche in Slovenia, tu dici, sicuramente si possono trovare delle cose internazionali. Lì abbiamo allo Chardonnay, giustamente è un vitigno internazionale. Ma ecco, il più grosso difetto che si può trovare in un vino, secondo te? Diciamo, appunto, abbiamo parlato di vini perfetti, diciamo, degli ultimi anni, quelli tutti uguali, rotondi, tutti barricati, ricchi di legno. Qual era il difetto così pronunciato da dire, sicuramente non siamo all'imperfezione, ma siamo veramente fuori completamente delle regole? Sicuramente l'uso spropositato del legno e l'esasperazione della rotondità, della maturità dei tannini, credo che abbia dato dei vini che fossero pronti immediatamente da bere, straordinari dal punto di vista degustativo, ma che poi fossero vini poco legati alla tavola, perché nella loro perfezione non avevano spazio per un abbinamento, e invece davano delle sensazioni, soprattutto di legno, che stancavano poi, soprattutto in gioventù, nella degustazione, perché era un legno sovrastante. Il legno deve essere sempre ben dosato. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di imperfezione e difetti nel vino. Bene, ora abbiamo con noi un produttore, nonché enologo, ma io devo dire anche un po' un filosofo del vino. Marco Pallanti, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno, sento che stai ridendo, ma ti definisco. Grazie per il filosofo, ci ho provato, ma non sono arrivato in fondo. Ma ecco, io volevo chiedere a un produttore enologo, se uno gli chiede, ma si può fare un elogio all'imperfezione di un vino? Ma io credo che il vino sia l'elogio dell'imperfezione, perché l'imperfezione non è proprio un concetto completamente negativo, è un qualcosa che, come posso dire, che indica un essere in divenire, no? E il vino è un essere in divenire perché è sempre imperfetto, no? Cioè, non è mai compiuto perché, come posso dire, si evolve con il tempo. Quindi tu dici, praticamente in questa evoluzione ci possono essere momenti di imperfezione diversi l'uno dall'altro, Imperfezione vuol dire fatto bene, vuol dire fatto compiutamente, no? Vuol dire finito. Ecco, il vino non è mai finito. Ecco, però c'è un, diciamo, come posso dire, un livello talmente sottile che è tra l'imperfezione e il difetto. Ecco, questo è un altro discorso, cioè il togliere i difetti, cioè l'andare verso l'assoluta mancanza di difetti, non è tanto perfezione quanto perfezionismo. E anche lì bisogna stare un po' attenti, ma insomma comunque il perfezionismo, diciamo, è qualcosa che rientra nelle corde dell'enologo ed è quello che, a cui tende. Ecco, ti ricordi un vino, ma anche una tua annata di un vino che hai definito imperfetto, però veramente che ti piaceva moltissimo? Quindi diciamo che quell'imperfezione è stato quel tocco in più che viene dato molte volte anche alla bellezza. Dicevo prima, la bellezza femminile, per esempio, ci sono donne bellissime anche perché hanno un naso molto particolare, che molte di queste corrono dal chirurgo plastico, in realtà se lo lasciassero sarebbero molto più belle. Ora così mi prendi un po', devo dire, l'imperfezione è un po', soprattutto nella fase giovanile dei vini, no? dove tu cerchi di immaginare quello che diventerà, quindi in quel senso lì non sono ancora compiuti, sono qualcosa che devono realizzarsi, e quindi diciamo è una sensazione che io provo tutte le volte che mi trovo ad assaggiare qualcosa di molto molto giovane, se non addirittura durante le fermentazioni. Ecco chiediamo a Luciano Ferraro, che è caporedattore del Corriere della Sera, ma ha un blog proprio sui vini ed è un grande appassionato dei vini. Buongiorno Luciano. Buongiorno. Volevo appunto chiedere anche a te sull'elogio dell'imperfezione di un vino, se qualche volta quando degusti dei vini ti rendi conto che quel vino non è perfetto, perché ormai il concetto di perfezione nel vino, anche questo è tutto da discutere, l'archetipo qual è, perché un tempo erano i vini quelli rotondi, diciamo rotondi, folte, anche setosi. Poi c'è stato il periodo dei vini fruttati, quindi diciamo che l'imperfezione è sempre un qualcosa che si discosta da quello che è perfetto in quel momento. In questo momento non so quale sia l'imperfezione che viene apprezzata, se è quella dei vini naturali, per esempio. Tu cosa ne pensi? Ma i vini naturali, l'imperfezione dei vini naturali va bene, purché non sia la ricerca dell'imperfezione, purché l'imperfezione non diventi un valore in quanto tale, cioè l'elogio dell'imperfezione in quanto dimostrazione che il vino è imperfetto. Questo può essere controproducente, è meglio puntare sull'imperfezione che racconta quel vino, che racconta quella terra. Parlavo pochi giorni fa con Arianna Occhipinti, la ragazza di 29 anni siciliana di cui ha scritto pochi giorni fa il New York Times e ha dedicato 2 pagine al suo magazine, e lei descrivendola come una dei 10 migliori produttori al mondo di vino naturale. Se tu parli con lei e le chiedi descrivimi i tuoi vini, lei non ti parla della esasperazione del naturale, della ricerca esasperata del biologico, lei ti parla della volontà di raccontare attraverso il suo lavoro la sua terra, cioè ti parla di Vittoria, ti parla dei muretti a secco, degli alberelli, delle viti ad alberello che lei ha piantato a 22 anni quando è uscita dall'università, pur avendo lei fatto, fondato la sua carriera, la sua storia di ragazza vinaiola su un manifesto, una lettera manifesto a Veronelli fatta appunto quando aveva 20 anni, che era un elogio della vigna in quanto tale, della vita della vigna senza alcun intervento. Quindi direi, se l'imperfezione è un discostarsi dal protocollo, dalla linea ufficiale e un cercare una propria via, va benissimo. L'imperfezione invece esasperata, che dimostra, per dimostrare che il vino è naturale, allora forse può essere controproducente. Sì, devo dire che anch'io, bevendo il vino più volte della Occhipinti, ho trovato che l'imperfezione, cioè lo trovo un elogio dell'imperfezione, quindi un vino che mi piace moltissimo. Certo. Lo trovo non tanto, sì, sicuramente nella storia che c'è dietro, ma anche proprio bevendolo quel vino, anche perché poi, essendo abituati per 10-15 anni a bere vini tutti uguali, sicuramente quando arrivano vini molto diversi ci sembrano imperfetti, in realtà probabilmente non lo sono, e quindi destano abbastanza più curiosità degli altri. Ma rimani con noi perché voglio tornare a Marco Pallanti. Marco, senti, secondo te esiste un vino perfetto? No, come ho detto, non esiste il vino perfetto. Volevo dire una cosa, però, l'imperfezione che non sia difetto. Ecco, il limite. Quando diventa difetto? Vediamo. Prima di tutto, quando è un difetto tecnico, di carattere tecnico, e quindi è qualcosa di, come posso dire, matematizzabile, cioè qualcosa di facilmente individuabile, voglio dire un eccesso di solforosa, una solforosa troppo bassa, quindi un'ossidazione, oppure un'acidità alta, un alcol alto, cioè quindi ci sono dei parametri chimici che ci possono dire questo vino non è in equilibrio perché ha qualcosa in eccesso o in difetto. In difetto in senso di mancanza, e questo è uno dei grossi problemi dell'imperfezione, perché voglio dire molto spesso sappiamo bene che alcuni difetti sono stati fatti passare, soprattutto nel passato, come caratteri di tipicità del territorio e quindi come qualcosa che fosse perfetto nell'imperfetto. Ecco. Sì, immagino che ti riferisci anche ai tuoi territori, che in passato c'erano certe puzzette, chiamiamoli così, che venivano fatte sì, passare. Sì, anche in Francia, voglio dire. Sì, certo, dappertutto. Gli anni 80 sono stati gli anni caratterizzati dal sudore di cavallo, no? Dal Brettano sì. Mices, quindi insomma. Oppure dalla merdina di pollo anche. Appunto, insomma, ora non stiamo. Ed erano fatti passare come terroir, insomma. Ma e qui però mi viene così spontanea una domanda: si sta parlando di perfezione e di imperfezione, ma il Tavernello Ferraro è un vino perfetto? Senti, io l'ho sentito poco, però per quello che l'ho sentito, in quanto assenza di difetti è perfetto. Ecco. Poi dopo c'ha altri limiti, però l'assenza di difetti lo rende, diciamo, non è perfetto ma è assente da difetti. Ecco. Ferraro, lo chiedevo anche a te. Sì, no, è un'altra categoria, è il vino come alimento che quindi può anche non avere caratteristiche appaganti, può essere perfetto nel senso che non ha difetti, ma è un'altra cosa ovviamente dal cercare nel vino una storia, una caratteristica, una particolarità che ti fa venire il piacere di bere, il piacere di bere in compagnia, il piacere di degustare. Il Tavernello ovviamente può essere un vino tecnicamente, nel senso come assenza di picchi d'alcol, assenza di solforosa, assenza di odori sgradevoli, può essere un vino, tra virgolette, perfetto. È un'altra categoria, il vino come alimento, di cui insomma si può discutere, ma è un'altra cosa. Ecco, abbiamo parlato della Occhi Pinti, Ferraro, sì. Diciamo arriviamo ai vini cosiddetti naturali, poi non stiamo poi a argomentare su cosa sono per una definizione diciamo perfetta. È ardua la definizione, sì. Ma ti volevo chiedere, secondo te nei vini naturali, molti vini naturali, l'imperfezione diventa difetto quando? Quando è esasperata, quando si tollera o addirittura si cerca il picco imperfetto, il picco alcolico, il picco anche del colore imperfetto, quando l'esasperazione dell'imperfezione fa parte di quella storia, di quel vino, quando non c'è equilibrio, nel senso che se c'è un progetto per costruire un vino, per dare un gusto, una caratteristica, una particolarità a quel vino e questo porta con sé un'imperfezione, va benissimo, imperfezione come uscita dalla linea maestra, da quello che fanno gli altri, va benissimo. Se invece si esaspera questa imperfezione fino al punto di renderla appunto non gradevole al bicchiere, quando manca un suo equilibrio, insomma, quando il vino manca di un suo equilibrio, allora si supera quella soglia di tollerabilità, secondo me. Bene, grazie a Luciano Ferraro, grazie a Marco Pallanti. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di imperfezione del vino, difetti del vino. Ora ne voglio parlare con Angelo Peretti, che è un giornalista e direttore del Consorzio del Bardolino e del Custosa. E con lui ne voglio parlare perché pochi, credo un mesetto fa o 3 settimane fa, parlavamo appunto di imperfezione del vino e di elogio dell'imperfezione, e lui mi ha detto: sai che ho scritto delle cose, ho buttato giù delle mie riflessioni su questo. Buongiorno Angelo, ce le vuoi raccontare? Buongiorno Davide, buongiorno. Beh sì, io amo i vini un po' imperfetti, perché sono i vini che hanno più carattere, che hanno più personalità e che nel tempo, nell'evoluzione in bottiglia, con calma, con pazienza nelle cantine, danno le emozioni. In questo caso io non uso mai il termine emozione per il vino, ma in questo caso così. Cito un esempio molto semplice: i vini delle annate fresche, che io amo, li chiamo anche i vini affilati, quelli che ti prendono quando sono giovani con una rasoiata nei denti, eppure quelli sono i vini che col tempo tirano fuori tutta la grazia e la finezza delle annate più complicate, più difficili. Cito un esempio su tutti: il Barolo del 96. I Barolo del 96 vennero dopo la grande annata calda elogiata da tutte le guide del 97 e vennero giudicati inferiori. Beh, oggi i Barolo del 96 sono di una bellezza, di un'eleganza, di una finezza e di una bevibilità assoluta. Quindi io amo i vini di quell'annata che vengono giudicate un po' imperfette, ma è l'imperfezione che dà la grande personalità. Bene, posso raccontare anch'io un aneddoto personale, perché proprio sul Barolo 89-90, 96-97, un grandissimo come Bruno Giacosa mi disse di tutte e due le annate, ma diciamo in due momenti, mi disse: guarda, tu prendi, compra se vuoi comprare quella che viene giudicata imperfetta, e aveva perfettamente ragione lui, perché poi nel tempo tutte e due le annate giudicate diciamo inferiori rispetto a quella che veniva giudicata la migliore sono diventati straordinari. Quindi bisogna capire forse che l'imperfezione alla fine si trasforma in un grande pregio. Questo è per assolutamente pochi. Assolutamente sì, quando è un'imperfezione chiaramente gestita dalla mano di un grande produttore che sa capire l'annata e sa capire il suo territorio. Posso citare un altro caso? Come no? Io amo per esempio i vini di Madiran, nel sud della Francia. Sono vini fatti con un'uva impossibile, che è il Tannat, che dà dei vini tannicissimi, veramente ti allappano la bocca, non puoi neanche berli quando sono giovani. Bene, i produttori di quella zona, per tirar fuori il fruttino di quell'uva, usano inoculare nelle loro botti i brettanomiceti, che sono dei lieviti normalmente giudicati letali per il vino e che vengono in qualche maniera rifuggiti nelle cantine di tutto il mondo. Ecco, nel Madiran, nel paese di Madiran, nella denominazione di Madiran, questo lievito nocivo viene usato in maniera intelligentissima per compensare il difetto della tannicità con un altro difetto e permettere al vino nel tempo di avere un frutto straordinariamente piacevole. Chiaramente sono vini da bere sui 20 anni, sono i vini della pazienza, i vini imperfetti sono quelli che ti richiedono il grande esercizio di pazienza. Bene, io chiedo anche a Giorgio Melandri, che collabora con la Guida del Gambero Rosso dei Vini ed è un giornalista che organizza anche una manifestazione a Faenza, in quel di Faenza appunto sui vini. Volevo chiedere anche lui se ama i vini imperfetti. Buongiorno Giorgio. Buongiorno. Ma diciamo che tante volte dei vini imperfetti mi hanno emozionato, ecco, dopo trovo che oggi si stia andando verso una visione ideologica, ecco, questa mi fa un po' paura, cioè il vino deve essere buono, quindi diciamo che l'architettura complessiva del vino deve digerire il difetto, se il difetto c'è, e dargli un posto che diventa emozionante. Ecco, credo che il rischio di oggi sia prendere questa idea del difetto e farne un'ideologia, così come si è fatta un'ideologia a suo tempo della barrique, come lo si è fatta della morbidezza. Insomma, io credo che questo sia il vero rischio di questa idea, cioè che si sta più che ideologia strada. Diciamo che diventi una moda. Una moda e anche per alcuni una visione ideologica, no? Cioè se il vino formalmente è ben fatto, allora non va bene, no, non è vero. Cioè, io credo che come in una faccia, no? Cioè, un difetto può starci bene o può starci male, cioè una questione credo che va risolta via via, caso per caso, su così, insomma, sulla degustazione in fondo, cioè sul fatto che il vino si deve bere, ecco, questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Senti, in questo discorso come inserisci i vini naturali o cosiddetti naturali? Ma io sono molto interessato ai vini naturali, credo che sia più giusto parlare oggi di vini artigianali, no? I vini dove ha un ruolo importantissimo la sensibilità di chi li produce, che rinuncia a una certezza dell'esito, che questa è la vera scommessa, no? di chi produce vini naturali, vini artigianali, e dall'altra parte utilizza la sua sensibilità per guidare il vino. Insomma, il vino è un prodotto dell'uomo, questo credo che così sia giusto ripeterlo, perché oggi tante volte sento in modo molto rischioso dire vabbè, però la natura, il vino è il rapporto dell'uomo con la natura, quindi insomma l'uomo ha una parte in commedia molto importante. Ma mi viene in mente che un paio di mesi fa abbiamo fatto una trasmissione tra vini industriali e vini artigianali e devo dire che non è venuta fuori sicuramente per la definizione vini artigianali cosa si possa inserire in questa categoria. È molto difficile, così come sui vini cosiddetti naturali sicuramente. Io credo che queste classificazioni siano molto difficili perché dentro poi ci va un po' di tutto e anche qui c'è il rischio, io credo, che tu hai detto giustamente che ad esempio l'imperfezione possa diventare una tendenza molto forte. Ma voglio tornare a Peretti. Peretti, anche tu, anche a te voglio chiedere, diciamo, si parla di imperfezione, molti ritengono che i vini, lo ripeto, tra virgolette naturali, abbiano delle imperfezioni lampanti. Tu cosa ne pensi? Dipende, come sempre. C'è il produttore serio che interpreta e conosce l'annata e la vigna e fa dei vini utilizzando i criteri dell'agricoltura biologica, dell'agricoltura biodinamica, con serissimi crismi di vigne e di cantine, quindi sono vini assolutamente perfetti sotto il profilo della tecnica enologica. Altri semplicemente fanno aceto che spacciano per vino attraverso quella concordo, attraverso quella che oggi è l'ideologia del naturale per quello che riguarda alcune tipologie di vino. Devo dire però che i vini naturali, cosiddetti naturali, a me non piace questa definizione perché tutti i vini sono o naturali o innaturali, certo. Ma alcuni sono straordinari. Ad esempio ho proposto in una serata, ero con amici al ristorante, ho proposto agli amici di bere uno champagne di un produttore biodinamico a temperatura ambiente, addirittura sgasandolo, perché così mi aveva insegnato quel produttore. Lui mi diceva: io voglio mettere in luce il Pinot Noir. Certo, mi avvalgo delle bollicine, perché qui da me in champagne usiamo le bollicine, ma tu considera il mio vino un Pinot Noir. Difficilmente un altro vino di un produttore che non avesse avuto la stessa cura assoluta nel vigneto, anche nel rispetto totale della vigna, avrebbe potuto essere bevuto in quelle condizioni. In quelle condizioni il Pinot Noir si esaltava in bianco in un vino che ha perso di fatto le caratteristiche dello sfumante, del brut, dello champagne, insomma. Ecco, Giorgio, volevo chiederti, ti è mai capitato di bere un vino e di esclamare è perfetto? Sì, qualche volta mi è capitato. Poi no, significa rimandare la discussione, cioè perché significa poi fare una discussione sul concetto di perfezione. Beh, che sono vini perfetti, lo penso dei vini di Sciava, ad esempio, no? Nella parte nord del Rodano. Però io credo che appunto dobbiamo anche accettare l'idea che il nostro gusto è condizionato dalla nostra cultura, dalle nostre esperienze, dal contemporaneo. Cioè un po' questa discussione è pericolosa perché si rischia, no, di fare delle categorie che deve, così, cercando che abbiano un valore nel tempo. Beh, forse bisogna anche accettare l'idea che il nostro gusto cambia, un po' come succede per la moda, no? Cioè c'è questa parte, anche in quelli di noi che resistono più non posso. Oggi il contemporaneo del vino ha portato in evidenza dei temi che 10 anni fa non c'erano. Ecco, questo credo sia una buona notizia, una cosa interessante. Io credo che i vini naturali esistano, adesso rispondo a Peretti, cioè i vini naturali esistono, sono i vini dove il produttore rinuncia a tutto un bagaglio tecnologico che gli garantisce degli aspetti formali e accetta di correre dei rischi e di in qualche modo interpretare in modo più così puro quello che ha il suo territorio e la sua annata. Ecco, credo che anche la vicenda del tempo oggi sia un tema d'attualità. I vini escono troppo presto, il mercato li deve far girare in fretta, succede anche coi libri, no? Per capirci, i libri stanno in catalogo sempre di meno. Ecco, io credo che tutti questi temi ci recuperino un rapporto con il tempo differente, ad esempio. Bene, credo a Andrea Grignaffini. Buongiorno Andrea. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Direttore creativo di Spirito Divino. Beh, dico, il confine tra imperfezione e difetto è molto stretto. Ti voglio chiedere, Andrea, ma il Tavernello è un vino perfetto? Ma guarda, raccogliamo una provocazione intelligente. Devo dire che è fatto, penso, in modo tecnicamente inappuntabile. Non sono un un usufruitore, diciamo così, continuo del tavernello, però per qualche volta per mestiere ho dovuto sentirlo e non voglio dire che mi sia ribaltato dalla gioia, però devo dire che la tecnologia adesso e la tecnica in cantina serve per far vini, voglio dire, corretti, e quindi penso che sia tutto sommato perfetto, ovviamente una parola grossa, ma a livello così paradossale ci può anche stare come concetto in senso lato. Beh, anche Angelo Peretti chiedo la stessa cosa. Concordo assolutamente, dal punto di vista tecnico barra tecnologico il tavernello è un vino perfetto. Qual è il problema? Il problema è che la perfezione tecnica in genere porta all'appiattimento di quelle che sono invece le asperità che donano grande gioia a chi ricerchi l'annata e il produttore, e l'annata e il territorio soprattutto, l'annata e la mano dell'uomo. Un vino troppo perfetto tecnicamente può essere fatto da chiunque in qualunque angolo del mondo, un vino imperfetto con l'imperfezione data proprio dall'annata, dal territorio, dal pensiero dell'uomo, può essere fatto solo in quel particolare posto e da quella particolare persona. È il concetto di terroir contro il concetto di tecnologia, insomma. Melandri, anche a te rigiro la stessa domanda. Il tavernello nella sua fascia di prezzo è un campione, secondo me. Cioè, un vino fatto bene, pensato per un certo tipo di consumo. Cioè, io penso che sappiano fare bene il loro lavoro, ecco. Poi non credo che sia il grande vino di terroir, ecco, questo è scontato. Anche se magari qualche spot televisivo ce l'ha voluto far credere, insomma. Beh, sicuramente, per questo va detto del mondo cooperativo, cioè fanno i vini con l'uva, che non è mica poco, scusate. Certo. Grazie a Angelo Peretti e a Giorgio Melandri. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, siamo qua. Tra l'imperfetto e il difetto, bene, è un limite davvero molto molto molto stretto. Allora Andrea, io chiedo a te, ma si può fare un elogio all'imperfezione di un vino? Cioè può essere un vino imperfetto quello che dici mi piace, lo voglio ribere, poi magari non lo troverai mai più con lo stesso difetto? Ma io penso che l'imperfezione in questo caso vada un po' vista anche come, diciamo così, con un senso anche dell'arte barocca, e penso anche di questo barocco contemporaneo, e quindi penso che ci stia proprio in questo momento proprio storico, l'idea di leggera imperfezione. Penso che la fine, insomma, degli anni da bere, degli anni 80, degli anni 90, che guarda caso sono annate in cui si è cercato di produrre vini il più possibile perfetti, e adesso in questa sorta di ricaduta un po' più, diciamo, oscura e complicata e articolata della vita in una società sempre più, diciamo così, fluida e dinamica, l'idea di qualcosa di diverso, in questo caso la leggera imperfezione, la perfezione dell'uomo, insomma, la perfezione del divino. Quindi più ci si va verso la terra e la vigna è nella terra, più secondo me c'è un'idea di imperfezione latente. Ma io devo dire che molte volte così ho considerato il kitsch bellissimo, armonico. Quando è armonico il kitsch è qualcosa di fantastico, poi può cadere anche sicuramente in qualcosa che non ha niente a che vedere con la bellezza, però qualche volta sono entrato in un locale e ho detto guarda, questo locale è kitsch, però c'è un'armonia di fondo. Allora chiedo a Gian Matteo Baldi, buongiorno, manager in questo momento della Bertani, ma è stato anche lui stesso un tempo produttore di vino. Ecco, ci può essere l'elogio dell'imperfezione? Si può fare di un vino? Dici sì, c'è qualcosa sicuramente che non è perfetto, c'è qualcosa, qualche profumo magari che non è armonico con tutto il resto, però questo vino sicuramente mi colpisce. Ma io penso di sì, a parte il fatto che credo, esiste un'estetica dell'imperfezione e non so, i giapponesi ne sono maestri, cioè perché nulla è perfetto, quindi il concetto il contrario dell'imperfezione, la perfezione, che come sentivo prima diceva Andrea, è una cosa che non appartiene all'uomo. Io credo che addirittura una stessa caratteristica può essere un difetto, un'imperfezione, a seconda dello stile a cui appartiene, a seconda del canone a cui si fa riferimento. Cioè il concetto di imperfezione è un concetto dinamico, quindi se noi abbiamo uno stile, faccio un esempio di tipo pratico riguardo al vino, all'inizio degli anni, metà degli anni 80, noi venivamo da a tutto uno stile di vini probabilmente molto legati a dei profumi terziari, tutto quello che era il profumo e il sapore del frutto era un evento da una parte nuovo ma da una parte apprezzabile. Adesso l'eccesso di frutto può essere addirittura un difetto, mentre lo sviluppo di un profumo terziario, anche se imperfetto rispetto, diciamo così, a un equilibrio, è un aspetto caratteristico di stile e quindi caratterizzante del vino. Chiedo a Giuseppe Palmieri, che è sommelier e direttore di sala dell'osteria La Francescana di Modena, quella di Bottura, tanto per intendersi, voglio chiedere a lui se molte volte un cliente gli ha rimandato indietro, gli ha detto no, questo vino ha un difetto, in realtà era semplicemente un vino imperfetto. Si possono correre questi errori, Palmieri? Assolutamente, può succedere Davide. Buongiorno a tutti. Succede che il cliente possa interpretare male un bicchiere, ma attenzione, questo è più importante, bisogna essere sempre concentrati sull'ospite. Evidentemente, eventualmente, l'ospite non ha un certo tipo di... il prodotto non gli piace, il vino non gli piace, non lo riconosce al suo palato, al suo gusto, come una cosa interessante, quindi preferisce bere altro. Ci vuole grandissimo equilibrio, te lo dico io che sono molto molto coinvolto dai vini naturali, che sono per certi versi i vini che sviluppano la cultura del difetto, che per me è una grandissima qualità ed è un motivo di discussione interessante ed è il motivo di discussione del futuro. Ecco, secondo te sviluppano il difetto o sviluppano l'imperfezione? Ma credo che non sia determinante riconoscerlo in un modo o nell'altro, o meglio un discorso che possiamo affrontare con più calma dopo, ma credo che bisogna invece sviluppare nel dibattito tra di noi la cultura del difetto inteso come probabile valore aggiunto. Cosa vuol dire? Che questa ricerca ossessiva, quasi compulsiva, nei confronti della perfezione, no? Di un bicchiere sempre più perfetto, sempre più facile, sempre più agile, sempre più algido, ci ha portato verso un rapporto anche poco emozionale. Io preferisco un vino con dei difetti che sono poi fisiologici, che quindi sono madre natura, che però mi permette di vivere in maniera autentica e, ripeto, emozionale il mio rapporto con il vino. Se io penso a un vino straordinario e, se vogliamo, per certi versi forte di qualche difetto, penso ad Ageno, il vino bianco della Stoppa, che più che bianco appartiene a una generazione nuova, che nasce da un nuovo modo di vivere il vino, che sono gli wine, li chiamano gli americani. Sono dei vini arancioni, aranciati, perché sono fatti con Malvasia, Trebbiano e Ortrugo, che è un'uva baccanera. Quindi vedete, l'uomo ha messo in discussione il territorio, si è messo in discussione, vive il difetto perché è un vino di grande fisicità, grande alcolicità, è un vino che ha bisogno degli sbagli, dei difetti, degli sbagli dell'uomo e dei difetti del vino, deve attraversare un periodo storico che magari nel tempo muterà, cambierà, smusserà alcuni angoli. Il difetto è un pregio, ecco, può essere una grande qualità sulla quale puntare in futuro. Bene, io chiedo a Andrea Grignaffini se è il difetto sul quale bisogna puntare o l'imperfezione, Andrea? Ma diciamo che il difetto, visto diciamo nel grande insomma concetto dell'imperfezione, diventa solo, voglio dire, lo strumento del comprendere la naturalità del vino. Cioè, devo dire che anch'io seguo da tanto tempo un po' i vini naturali, devo dire che il difetto non deve mai diventare la componente principale del vino, ci mancherebbe. Quello vuol dire non conoscenza, diciamo così, di una prassi enologica anche, voglio dire, ancestrale, ma in tutti i modi non può essere messa al centro. Deve essere il neo su Mina, devo dire, cioè l'imperfezione delle dame settecentesche, insomma, deve essere una cosa un po' così, che riporti un po' la naturalità del mondo del vino, più che, voglio dire, il punto centrale. Gian Matteo, tu cosa ne pensi di questo? Cioè, il difetto può diventare veramente così l'attenzione del futuro? Ma allora, Intanto io personalmente vedo tra difetto e imperfezione una differenza, che è una differenza di parole, dopo naturalmente può diventare una lunga discussione, però il difetto è proprio una mancanza. Il difetto è quando noi, secondo me, vediamo che è qualcosa che non può essere cambiato, è statico. L'imperfezione invece all'interno di un canone dinamico è una spinta, è uno stilema, è una questione di affrontare le cose in maniera diversa e, come diceva prima Palmieri, di dare anche dei valori emozionali a quello che si fa. Apparentemente sono sinonimi, per me non lo sono, cioè certo. quando il difetto è un difetto non si potrà mai cambiare, certo. Quando c'è un qualche cosa, cioè è il tempo che cambia le due parole, il difetto è una cosa che sarà sempre così, l'imperfezione è un qualcosa che tende a, che comunque ha un rapporto di duttile, che si può modificare. Bene, io ringrazio Gian Matteo Baldi, Andrea Grignaffini e Giuseppe Palmieri. Devo dire che Palmieri sul finale proprio della trasmissione ha lanciato una grande bomba, ha detto, ebbene, il futuro sarà soprattutto basato sul difetto, saranno questi i vini sui quali dovremo porre attenzione, e credo che sia una bella bomba, un bel ballon d'assai questo qua sul mondo del vino. Bene, grazie, io ringrazio tutti, ora vi do appuntamento domani a riposo, con il riposo del guerriero alle 11.15 e ogni giorno con la pillola delle 11.05 e con la ripetizione alle 23.05. Buon weekend a tutti, soprattutto a Firenze, a Taste, perché da oggi inizia la grande kermesse con 250 espositori artigiani del cibo che durerà fino a lunedì. Buona giornata dal vostro gastronauta.